Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. L'uomo che stiamo ascoltando non è un cantante. A questo aggiungete il fatto che ha superato già da un po' gli 80 anni. E allora, certo, si può capire se qua e là la voce è un po' stentata. Il brano che sta eseguendo è uno dei più grandi successi mondiali di tutti i tempi. Una canzone che ha venduto milioni di dischi ed è stata cantata da oltre 100 interpreti diversi. What the World Needs Now. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Nonostante sia datata 1965, i suoi versi sono più attuali che mai. Quello di cui il mondo ha bisogno è l'amore, l'unica cosa della quale non ce n'è mai abbastanza, e non solo per alcuni, ma per tutti. Colui che la interpreta in questa versione che stiamo ascoltando, lo abbiamo detto, non è un cantante professionista. In questo caso è molto di più. Ne è l'autore, uno dei più prolifici compositori di tutti i tempi, che ha scritto centinaia di canzoni di enorme successo. Il grandissimo Burt Bacharach. Di solito lui non canta mai, soprattutto adesso che è anziano, ma qualche volta gli capita di intonare una delle sue grandi hit. Considerato il re dell'easy listening di prestigio, il cantore dei buoni sentimenti e delle melodie che si ricordano dopo una sola volta che le hai ascoltate, Burt Bacharach attraversa le nostre vite dagli anni 50 ad oggi senza mai una defiance, sfornando hit mondiali a decine e realizzando singoli, album, progetti cinematografici, colonne sonore e musical che pur nei diversi ambiti mantengono tutte quelle caratteristiche che fanno dire «Ah sì, certo, una canzone di Bacharach». Who looks at you? The way I do when you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I Magnifici Destini dedica la puntata di oggi a Burt Bacharach. Protagonista sarà la sua incredibile carriera, la sua vita tutta dedicata alla musica, alla composizione, in un crescendo di successi e di riconoscimenti che partono dalla metà degli anni 50 per arrivare ai giorni nostri. Vi tracceremo il profilo dell'uomo e le influenze che segnano indelebilmente la sua vita e la sua carriera, ma anche le sue scelte musicali attraverso alcuni incontri decisivi. E per entrare subito in argomento, vi facciamo ascoltare una canzone. Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Lili Marlene, sicuramente il più grande successo della indimenticabile Marlene Dietrich. Fan fatale per antonomasia, mito cinematografico del Novecento insieme alla divina Greta Garbo, protagonista di film che segnano la storia del cinema come L'Angelo Azzurro, la Dietrich alterna la sua carriera di attrice a quella di cantante, che specialmente nella seconda parte della sua vita, dagli anni 50 in poi, la vede protagonista di numerosi tour e concerti. Ha un timbro molto particolare, da contralto, e non proprio tutte le canzoni sono studiate per una voce come la sua, eppure lei è più che certa di poterle rendere al meglio, nel suo stile, quello recitato. Si tratta solo di trovare la tonalità giusta, il giusto arrangiamento. Ci sono alcune canzoni in particolare che amo, ma che apparentemente non sembrano adatte a me. Anche alcune di solito cantate da interpreti maschili. Andavano arrangiate, adattate alla mia voce. Marlene si trova a New York e sta preparando uno spettacolo. Ha firmato una serie di contratti che la vedranno protagonista nei teatri più prestigiosi di Londra, Parigi, Berlino, Las Vegas, ma non possono essere solo spettacoli di canzoni. Lei è la grande Dietrich, un'attrice mitica. I suoi show devono essere all'altezza della sua fama. E le canzoni vanno tutte tarate su di lei. Non è un lavoro semplice. Non solo dal punto di vista strettamente musicale bisogna rivedere tutte le tonalità, modificando gli accordi senza cambiare la melodia, ma anche sul piano umano è una bella impresa. Perché di certo la grande Marlene, la diva, l'angelo azzurro, non ha un caratterino proprio malleabile. Ma c'è qualcuno che forse fa il caso suo. Un musicista di New York, fresco di studi, del quale le hanno parlato. Ha solo 25 anni, quindi abbastanza giovane da non avere ancora fatto molto e trovare allettante la proposta di quell'attrice stravagante, ma talmente dotato musicalmente da poter sostenere il confronto con una come lei. Il suo nome è Burt Bacharach. Marlene Dietrich mi ha conosciuto prima di chiunque altro, quando ancora ero uno sconosciuto. Mi ha dato fiducia quando io non ero ancora nessuno. Bello, ricco, figlio di un famoso giornalista, cresciuto a Forest Hills e laureato alla McGill University of Music. Burt è un bravo pianista e ha suonato per un po' nel gruppo del cantante Vic Damone. È un ragazzo educato, di buona famiglia, raffinato. Quando gli dicono che Marlene Dietrich lo ha convocato per una possibile collaborazione, fa fatica a crederci. Ma chi? Marlene Dietrich l'attrice? Quella di Lili Marlene? Marlene mi contattò per fare un tour. Era una prospettiva eccitante e una sfida per me, e anche per lei, perché durante la guerra era scappata dalla Germania e si era rifugiata negli Stati Uniti. Era contraria al nazismo e aveva cantato per le truppe americane, quindi per molti tedeschi era una traditrice. E avrebbe avuto un sacco di date a Berlino. È vero che la guerra era finita da 10 anni, ma molti se la ricordavano. Marlene e Burt realizzano uno spettacolo che è molto più di un concerto, è una sorta di cabaret diviso in due parti distinte. Nel primo tempo l'attrice interpreta canzoni d'amore e indossa un abito che farà scalpore, una serie di strati di seta color carne tempestati di strass che danno l'impressione che sia nuda. Nella seconda parte la diva indossa invece uno smoking di foggia maschile con tanto di cilindro e interpreta canzoni del repertorio dei suoi colleghi uomini, arrangiate da Burt con grande maestria. Una sorta di rappresentazione di se stessa, visto che ha dichiarato pubblicamente di essere bisessuale. Provocatorio quanto basta, inconsueto e di gran classe. Uno show che ha un successo mondiale, compresa la Germania. I got the routine, so drop another nickel in the machine. Sicuramente Marlene Dietrich rappresenta il primo magnifico destino nella vita di Burt Bacharach. L'influenza che la grande attrice e cantante ha su di lui è determinante non solo per la nascita della sua carriera di musicista, ma anche per l'esperienza che Burt si fa, per così dire, sul campo. Realizzare quel tour fu un lavoro faticoso. In ogni paese dove andavamo c'era un'orchestra differente e io ogni volta dovevo ricominciare da capo. È stata un'ottima scuola. Nel 1957, tra un concerto e l'altro della grande Dietrich, il 29enne Burt Bacharach mette piede per la prima volta nel Brill Building di New York. È molto emozionato, perché quel meraviglioso edificio sito a Manhattan nella 49esima è il tempio della musica americana. Something tells me I'm into something good. sede dell'industria musicale statunitense e degli studi di registrazione dove vengono realizzate tutte le canzoni più famose del mondo, il Brill Building accorpa gli uffici dei produttori, dei musicisti, dei parolieri. Sono tutti lì, da Glenn Miller a Benny Goodman, da Neil Diamond a Paul Simon, con le loro band, i loro agenti, i loro autori. Essere parte del Brill Building vuol dire essere qualcuno. Per questo, mentre varca la sua soglia, Burt Bacharach ha un nodo alla gola per l'emozione. Ha un incontro con alcuni dirigenti della Paramount Music Company per una possibile collaborazione con la loro etichetta Famous Music, ma l'appuntamento più importante di quel giorno per lui è con il suo destino. Lo scorso 9 maggio 2012, Burt Bacharach, oggi 84enne, è stato insignito del prestigioso premio Gershwin, consegnatogli dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama in persona. In quell'occasione il presidente racconta proprio quello che accadde all'interno del Brill Building. Burt e Hal si incontrarono per la prima volta nel famoso Brill Building di New York. Burt aveva abbandonato le sue speranze infantili di diventare un giocatore di football, mentre Hal aveva lasciate le redazioni dei giornali per scrivere i testi per le grandi band. E così il calciatore e il giornalista iniziarono a scrivere canzoni insieme. Il presidente Obama parla di un certo Hall, con il quale Burt Bacharach inizia a scrivere canzoni. Ma di chi sta parlando? Vediamo di scoprirlo. Abbiamo lasciato il giovane Burt sulla soglia del Brill Building, forse un tantino intimorito dalla maestosità della costruzione, ma soprattutto dal suo significato e dal suo valore in quel mondo dove lui ha deciso di investire tutti i suoi sforzi. Vuole essere un compositore ad ogni costo. Mentre sta aspettando in sala riunioni, Burt sente qualcuno parlare con foga da una stanza attigua. Come mi viene un'idea? Lo sapessi, sarebbe tutto più facile. In realtà non ho una formula. Alcune volte mi arriva dolcemente, a poco, altre invece si manifesta con l'impetuosità di una cascata. Può arrivare prima il titolo, può essere una conversazione che mi colpisce, ma il più delle volte le parole saltano fuori chissà da dove. Ecco, quello che cerco di fare è rendere queste idee nella maniera più semplice. La semplicità è la chiave di tutto. Burt Bacharach non sa chi stia parlando, ma deve essere qualcuno che, come succederà a lui di lì a breve, sta facendo un colloquio di lavoro. Di sicuro è un paroliere. Quelle frasi potrebbero essere tranquillamente le sue. Anche a lui le note saltano fuori chissà da dove e cerca di esprimersi con semplicità. Quel paroliere che gli viene presentato poco dopo si chiama Hal David ed è il secondo magnifico destino nella vita di Burt Bacharach. Il loro è un incontro decisivo per entrambi. Senza molte parole si capiscono alla perfezione e i testi di Hal sembrano nati per le musiche di Burt. The moment when your lips met mine and that first exciting time I held you close to me. The sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken heart. Then later on the joy of making up, never, never more to part. There's one thing left to do. The Story of My Life, interpretata dal cantante country Marty Robbins, è la prima canzone della coppia Bacharach-David. È un ottimo successo, salendo in pochi giorni al top della classifica delle canzoni country. Ma è solo pochi mesi dopo che la coppia scrive una canzone destinata a diventare uno standard mondiale. A interpretarla è Perry Como. Magic moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. Magic Moments è una grandissima hit, una canzone diventata un cosiddetto standard, entrata a far parte della vita di tutti grazie anche a molte differenti versioni. Il suo successo immediato catapulta la coppia Bacharach-David nell'Olimpo dei grandi autori del Brill Building. Da questo momento i due non si fermano più. Non è poi così difficile scrivere un testo di successo, basta non fare confusione. Quando si scrive una canzone, ci si deve concentrare su una sola cosa da dire. A me piacciono quelle canzoni dove nell'arco di 3 minuti si racconta una storia dall'inizio alla fine. Sono sempre le più belle, quelle che hanno maggior successo. Sarà questo il segreto di una delle coppie più prolifiche nella storia della discografia mondiale? Di sicuro la collaborazione tanto stretta fra i due autori deve averli aiutati e una certa impronta compare ripetuta costantemente nelle canzoni che compongono insieme. Lo stile musicale di Bacharach è caratterizzato da una progressione inusuale di accordi, da figure ritmiche e sincopate, un fraseggio irregolare e frequenti modulazioni. A questo si aggiunge una metrica che cambia in continuazione. Sembrerebbe qualcosa di estremamente complesso, ma il risultato che ne deriva è una melodia semplice, facilissima da ricordare, che ne decreta il successo immediato. Basta ascoltare una volta le sue canzoni per impararle. Il cantante Gene Pitney ricorda la sua collaborazione con il duo Bacharach David. Bert e Al vennero nel mio ufficio del Brill Building e mi proposero un pezzo. Ora, una cosa che cerco sempre di spiegare, ma faccio fatica, è che Bert non è un cantante particolarmente brillante. Non ha una gran voce e forse non è nemmeno un pianista provetto. Non uno che potrebbe fare un concerto, intendo, ma quando si siede al pianoforte e ti suona una sua canzone, è assolutamente imbattibile. Io non lo so cosa sia, ma c'è qualcosa che lui ti lascia ogni volta, che ti cattura. Insomma, quel pezzo decisi subito di farlo. Era 24 Hours from Tulsa. Iniziava con due accordi che sembravano fatti da una tromba. E poi il ritmo venne da solo. Successe per merito dei testi che aveva scritto Hal David. Musica e parole che si compenetrano e che trovano una perfetta corrispondenza sono la ricetta sicura per il successo. L'incontro e la collaborazione tra Burt Bacharach e Hal David ne sono un esempio concreto. Ma c'è qualcosa, o per meglio dire qualcuno, che può trasformare tutto questo nella più straordinaria alchimia possibile, in qualcosa di veramente grandioso. Ed è l'interprete giusto. I due compositori sanno bene che sono molti i cantanti che possono portare le loro creazioni a diventare delle hit, ma trovare l'interprete perfetto, colui o colei che incarni tutte le caratteristiche che loro stanno cercando, come dire il numero 3 della loro coppia, quello sì che sarebbe davvero fantastico. Ma quell'interprete si trova molto più vicino di quello che pensa. I magnifici destini. Oggi I Magnifici Destini ha un protagonista d'eccezione, non un cantante, ma un compositore, uno dei più grandi e conosciuti in tutto il mondo, Burt Bacharach. Vi abbiamo raccontato dei suoi primi esordi come arrangiatore e direttore dei concerti di Marlene Dietrich e del suo incontro con il paroliere Hal David, che rappresenta per lui la svolta determinante della sua carriera. Anzi, in quella di entrambi, come racconta lo stesso David nella sua biografia. Mi ritengo molto fortunato ad aver incontrato Burt Bacharach sulla mia strada. Perché è un uomo dai molti talenti, un arrangiatore magistrale, un fantastico direttore, ma soprattutto è un brillante compositore. Tra gli scrittori di canzoni ci sono molti autori di melodie, ma una manciata di compositori. E lui è uno di quei pochi. Quello che va indubbiamente a completare la creazione di una bellissima canzone, fatta di musica e parole splendide, e che si sposano alla perfezione tra di loro, è l'interprete. La canzone è un angelo e il cantante sono le sue ali, direbbe qualcuno. E in effetti le canzoni di Burt Bacharach e Hal David trovano un paio d'ali pronte a spiccare il volo. L'occasione si manifesta durante una sessione di registrazione alla quale partecipa una giovane cantante afroamericana. Il suo nome è Dionne Warwick. Tutto cominciò perché io feci una sessione di cori per una canzone di Bacharach che si intitolava Mexican Divorce e quando terminammo il lavoro Bart mi chiese se ero disposta a cantare alcuni demo che aveva appena scritto con il suo nuovo partner, Hal David. Io ho accettato ed è così che ci siamo conosciuti. Aveva un lato tremendamente forte, ma quando cantava piano aveva una gentilezza unica. Mi faceva venire in mente dei piccoli vascelli in miniatura racchiusi in un'enorme bottiglia. Mi dette un'emozione incredibile. Dionne Warwick proviene da una famiglia di musicisti. Sissy Houston, la mamma di Whitney, è sua zia ed è la leader delle Sweet Inspirations, un gruppo gospel che canta con Aretha Franklin. Insomma, cantanti di grande livello che le girano intorno fin da piccolissima, quasi un destino annunciato. Dionne canta quindi alcune demo che servono a Burt Bacharach per far sentire ai produttori le sue canzoni. La ragazza ha 22 anni soltanto e spera che le sue interpretazioni possano piacere e si decida che una di quelle demo diventi la sua canzone di debutto. Ma pare che ai produttori il suo stile non piaccia. La sua voce è troppo forte, potente, un po' roca, decisamente particolare e viene sempre scartata. All'ennesimo rifiuto che le viene comunicato da Burt Bacharach e Al David, Dionne ha una crisi di pianto e si mette a sbraitare. Don't make me over, man. Non cercate di cambiarmi. Accettatemi per quella che sono. Al David sta guardando Burt Bacharach entusiasta. Lui è uno che non si lascia scappare mai nulla, che afferra le idee mentre gli volano intorno. E in quella sfuriata di Dionne Warwick c'è una frase che, wow, se è una bella frase. Al mi disse, Burt, penso che abbiamo appena sentito il titolo della nostra nuova canzone, Don't Make Me Over. Don't make me over. Don't make me over. Quella frase gettata là con rabbia da Dionne Warwick diventa una stupenda canzone nel 1963 e segna l'inizio di una collaborazione a tre destinata a produrre decine di grandissimi successi fra Burt Bacharach, Al David e Dionne Warwick, che anni dopo parlerà in questo modo di questa incredibile alchimia. Non si può paragonare a nient'altro di analogo che si era verificato per così tanto tempo. Un team di questo genere non c'è mai stato. Le ragioni di questo risiedono prima di tutto, credo, nella qualità delle canzoni, perché sono veramente canzoni bellissime. E poi anche perché erano così diverse da tutto il resto che c'era intorno. C'era rock and roll, c'erano i Beatles, c'erano gli artisti neri della Motown. Burt proponeva un sound completamente diverso, che arrivava da qualche parte sconosciuta, che si era infilato non visto e ora era lì ed era talmente valido da restarci. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Il successo del trio è grandioso. Le hit fioccano una via l'altra e la coppia di autori raggiunge un record tale di prime posizioni in classifica da essere assolutamente ineguagliabile. Intanto, nella vita privata di Burt Bacharach arriva un cambiamento che si rivelerà essere molto importante, anche sotto il profilo professionale. Conosce infatti l'attrice Angie Dickinson, che fa parte dell'entourage di Frank Sinatra e del suo gruppo di performer, il Rat Pack. Angie ha appena interpretato il famoso film Ocean's Eleven. Alcuni miei amici di New York mi dissero: «Ehi, Burt, abbiamo conosciuto una ragazza che, wow, è uno schianto, sarebbe perfetta per te». Anzi, mi dissero proprio: «Abbiamo una ragazza per te». Burt e Angie si innamorano e si sposano nel 1965. La loro è una storia travolgente che trasforma i due in una delle coppie più inseguite dai paparazzi di tutta America. E come ricorda la stessa attrice, apre anche nuovi orizzonti nella carriera di Burt Bacharach. Andai a trovare il mio caro amico, il produttore Charlie Feldman, che aveva appena finito di girare il suo film Ciao Pussycat e aveva bisogno del compositore delle musiche. Così gli dissi, beh, c'è Burt. Fu così che iniziò la sua carriera cinematografica. Ciao Pussycat, esordio cinematografico di Woody Allen sia come sceneggiatore che come attore, ha un cast d'eccezione. Peter Sellers, Peter O'Toole, Romy Schneider, Capucin e Ursula Andress. Il titolo Ciao Pussycat, in inglese What's New Pussycat, è la frase che il protagonista, un terribile donnaiolo interpretato da un esilarante Peter Sellers, usa normalmente per salutare le donne che incontra. Burt Bacharach è elettrizzato. Il mondo del cinema lo affascina e la sua perfetta alchimia con Al David produce una canzone bellissima che viene portata al successo da Tom Jones. Pussycat, pussycat, I love you, yes I do. You and your pussycat knows what's new, pussycat. Whoa, whoa, whoa, what's new, pussycat. pussycat. Whoa, whoa, whoa, whoa. Questa canzone riceve addirittura una nomination all'Oscar e benché poi non lo vinca, pone l'attenzione dei produttori di Hollywood sul duo di compositori, ai quali viene immediatamente proposta la realizzazione di un brano per un altro film. Si tratta di Alfie, del regista Lewis Gilbert, interpretato da un giovane e bravissimo Michael Caine. All'inizio a Bacharach l'idea non piace molto. La canzone che gli hanno chiesto si deve intitolare proprio Alfie, perché deve fare da traino al film e a lui quel nome non dice niente, non lo ispira. Anche Al David sembra come bloccato, ma poi i due hanno la brillante idea di visionare alcune scene durante il montaggio. Scoprono così che c'è qualcosa di molto particolare in quel film. Il protagonista Michael Caine attraversa spesso la cosiddetta quarta parete, conversando direttamente col pubblico e mettendolo a parte delle sue emozioni. È una trovata geniale e l'ispirazione dei due compositori arriva magicamente. La canzone che ne nasce viene interpretata prima da Cilla Black e poi da Cher, ma è nella versione di Dionne Warwick che diventa un successo mondiale. Burt Bacharach e Al David si trovano nel loro ufficio nel Brill Building di Manhattan quando ricevono una telefonata dal produttore Charlie Feldman, caro amico di Angie Dickinson. Feldman ha comprato i diritti dell'unico romanzo di Ian Fleming con James Bond, che non sia già stato acquistato da Albert Broccoli, storico produttore di tutti i film con il mitico 007. Si tratta di una sorta di parodia delle storie di James Bond, e nel suo cast dovrebbero figurare alcune vecchie conoscenze di Burt e Al incontrate sul set di Ciao Pussycat, Woody Allen, Peter Sellers e Ursula Andress. Per Burt Bacharach e Al David, il progetto appare subito allettante. Sarà un po' come tornare in famiglia, e poi scrivere canzoni per il cinema oramai li diverte davvero. Casino Royale, diretto da John Huston e interpretato anche da David Niven e Orson Welles, ispira alla coppia di compositori più famosi di tutti gli Stati Uniti una delle loro canzoni più belle, che riceverà un'altra nomination agli Oscar, The Look of Love, interpretata dalla bravissima cantante Dusty Springfield. The look of love is in your eyes, the look your heart can't disguise. I magnifici destini. I'll Never Fall in Love Again, una delle più belle e orecchiabili canzoni scritte dal duo Burt Bacharach e Al David e cantata dalla incomparabile Dionne Warwick. Un trio che dagli inizi degli anni 60 realizza qualcosa di assolutamente unico, una collaborazione costante che porta a un numero incredibile di hit mondiali, canzoni che senz'altro segnano un'epoca. Musicalmente molto riconoscibili, tanto che si parla proprio di uno stile alla Bacharach, definito easy listening, le creazioni del nostro protagonista dei Magnifici Destini di oggi stazionano nelle prime posizioni delle classifiche statunitensi e inglesi per decenni interi. È il 1969. Burt Bacharach ha ottenuto quello che cercava. Ha decine delle sue canzoni nelle prime posizioni delle classifiche e la sua collaborazione con Al David va a gonfie vele. I due compositori hanno trovato la loro musa ispiratrice, la loro interprete ideale, Dionne Warwick, e collaborano con altri interpreti famosi. Possono ritenersi veramente soddisfatti. Ma quell'anno sta per rivelarsi storico per loro. La 20th Century Fox e il produttore John Foreman hanno in mente un progetto molto importante. Si tratta della storia romanzata di due rapinatori realmente esistiti, Robert LeRoy Parker e Harry Longbow, meglio noti con i loro nomi di battaglia, Butch Cassidy e Sundance Kid. Il film sarà diretto dal grande regista George Roy Hill e si prevedono due interpreti unici, Paul Newman e Robert Redford. la produzione richiede a Bacharach e a David una canzone veramente speciale. Quando ho in mente un testo non riesco a dormire. Provo a scacciarlo, ma lui se ne sta lì. E più che mai mi capitò per il film Butch Cassidy. Non volevo scrivere la storia dei due rapinatori, sarebbe stato troppo banale. E sapevo che Bart non avrebbe mai scritto una musica western, sarebbe stato altrettanto banale. Oh, non dormii per notti intere pensando a una frase che facesse veramente scalpore. Ha ragione Al David. Cosa di più ovvio che scrivere una ballata western sulle avventure di due fuorilegge così noti come Butch Cassidy e Sundance Kid? E invece no. La più grande coppia di compositori del momento non fa quello che farebbero tutti. Nasce così la canzone che regala a Bacharach e David l'Oscar nel 1970. Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. Dopo un decennio di incredibili successi e dopo la conclusione del suo matrimonio con Angie Dickinson nel 1980, Burt Bacharach conosce Carol Bayer Sager, anche lei autrice di testi come Al David. Carol collabora spesso con Paul Allen, marito di Liza Minnelli, che proprio in quel periodo sta girando un film con Dudley Moore, Arthur, ed è grazie a questo intreccio di conoscenze che Bart scrive una canzone destinata a regalargli un secondo Oscar nel 1981. Best That You Can Do Is Fall in Love, cantata da Christopher Cross. Le collaborazioni di Burt Bacharach si susseguono negli anni con artisti di grande levatura. Una di quelle che gli dà maggiore soddisfazione arriva grazie a uno dei suoi successi più grandi, Say a Little Prayer. Scritta con Al David per Dionne Warwick, piace moltissimo a una delle più dotate cantanti dell'epoca, che ne realizza una versione divenuta famosissima, Aretha Franklin. Aretha Franklin ha dato alla nostra canzone un significato incredibile, un significato che nemmeno noi sapevamo che avesse. Vi ha trasferito tutto il suo spessore di cantante e di donna. Un'altra grande soddisfazione arriva a Burt Bacharach e Carol Bayer Sager, divenuta nel frattempo sua moglie, proprio da Dionne Warwick. I due scrivono una canzone per Rod Stewart, That's What Friends Are For. Dionne, colpita dal dilagare dell'AIDS nel mondo, ne realizza una cover a scopo benefico insieme a Stevie Wonder, Elton John e Gladys Knight per l'American Foundation for AIDS Research, facendo vincere a Burt il Grammy Award per la migliore canzone dell'anno nel 1986. And if I should ever go away, well then close your eyes and try. Tra i più grandi fan di Burt Bacharach è il bravissimo cantautore britannico Elvis Costello, che ha dichiarato spesso di essersi ispirato al grande compositore fin da giovanissimo. Nel 1996, dal loro incontro, nasce un album di canzoni particolarmente intense, Painted for Memory, che rappresenta il ritorno dopo parecchi anni di Burt Bacharach, a quel tempo settantenne, alla composizione e che vince il Grammy Award per la migliore collaborazione pop. A dimostrazione del fatto che il vero genio e il grande stile non hanno età.